Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Se vi manca il pollice verde o se siete tra coloro che vorrebbero poter avere sotto mano in ogni momento dell'anno basilico e prezzemolo fresco, forse vi sorprenderà sapere che avete molte esigenze in comune con quei botanici e con quegli agronomi che cercano di studiare le condizioni ambientali ottimali di crescita delle piante, in particolare delle specie agricole. Per rispondere a entrambi è nata Mendel Project, una startup che ha appena concluso lo sviluppo di una serie di serre, o meglio di teche tecnologiche, per la coltivazione di piante indoor che permettono il monitoraggio e il controllo remoto dei vari parametri ambientali. Le diverse varianti di questo oggetto sono rivolte quindi tanto al laboratorio scientifico quanto alla cucina di un foodie, ma si tratta solo dell'inizio di un progetto molto più ambizioso che, secondo un modello di business sempre più diffuso, sfocia nel big data. Ho incontrato uno dei due fondatori di Mendel Project, Riccardo Savi, a Cibus Tech, la fiera dedicata agli operatori professionali del mondo dell'industria alimentare, che si è appena conclusa a Parma. Sentite com'è andata. Praticamente noi abbiamo predisposto questa teca composta da LED sensoristica, un ambiente protetto per poter crescere una specie vegetale. Quindi intanto abbiamo un oggetto che dimensioni ha? Una teca non in vetro, perché poi sono tutti materiali stampati, usate la stampa 3D per fare questo oggetto, ma insomma è una teca trasparente. Una teca trasparente. Che può essere grande quanto? Allora, la Human Seed è grossa, è un'altezza di 30 cm ed è stata studiata per la prima fase di crescita, quindi quella da seme a talea. Abbiamo altri dispositivi di altre dimensioni per poter accogliere tutte le diverse esigenze. Addirittura, qual era l'idea originale? Quando ho conosciuto il mio cofondatore, praticamente l'idea su cui stava lavorando era appunto questo bel mobile da casa su cui da poter tenere in salotto, da magari, no? Dove tenere delle belle piante in vista. Insomma, quindi parliamo di, diciamo, una teca molto tecnologica. Che cosa è in grado di fare? Praticamente è in grado di verificare le condizioni ambientali dentro cui la pianta cresce e analizzandole riusciamo a determinare quali parametri sono ottimali per la crescita e replicarli in maniera sistematica. Praticamente, quindi avete sia dentro questa teca sia dentro dei sensori che misurano che cosa? Temperatura, umidità, pH, possibilità di verificare anche quanto è organico il terreno, quindi capire quanta vita c'è nel terreno, e luminosità, eccetera, e permette appunto di verificarle tramite smartphone, computer, eccetera. Ma permette anche di modificarla poi, no? Per aggiustarla, quindi avete dei LED che illuminano e riuscite a modificare sia l'umidità che la temperatura dentro questa, esatto, sì, questa teca. Perfetto, quindi riuscite sia a controllare attivamente che a monitorare costantemente lo sviluppo di queste piante. C'è addirittura una telecamera dentro. Sì, praticamente la telecamera serve a verificare che la pianta stia crescendo nella maniera ottimale. Quindi abbiamo il nostro modello di crescita, diciamo, del pomodoro, del basilico, però appunto non nasce per queste piante, ma per le piante che è difficile far crescere. Certo. A che punto siete dello sviluppo della vostra idea? Allora, noi abbiamo sviluppato i dispositivi, siamo stati incubati dal Parco Tecnologico di Lodi e stiamo cercando appunto di arrivare sul mercato entro i prossimi 6 mesi. Abbiamo quindi bisogno di investimenti e di partire con l'industrializzazione, quindi di fare tutte quelle modifiche, quelle certificazioni che servono per poter arrivare in un laboratorio a casa. Ecco, tutti questi dati di crescita che raccogliete tra telecamere, sensori e quant'altro, immagino che abbiano anche un loro valore, diciamo così. Oggi ci sono startup che addirittura nascono solo con l'idea di raccogliere e commerciare dati. Voi cosa ve ne farete? Sì, praticamente abbiamo visto che nell'ambito della botanica c'è un buco da riguardo, c'è tutta una serie di informazioni, ci sono a livello genetico ma non a livello fenologico, quindi non sappiamo come si comportano le piante all'interno di un certo ambiente. Quindi questi dati in un primo momento servono a voi per far sì che appunto quello che vuole il basilico a casa sua ce l'abbia sempre meglio, insomma vi consente di perfezionare l'algoritmo di crescita, però ricaverete anche delle informazioni quindi di valore generale. Esatto, sì, il nostro obiettivo è quello di diventare una banca dati del settore e quindi utilizzare Big Data a questo scopo, quindi a perfezionare sia i dispositivi per poter sempre migliorare e automatizzare tutte le varie fasi sempre meglio, e ma anche a conoscere meglio come si comportano le piante al variare di queste condizioni ambientali, soprattutto quindi. Perché appunto lo stiamo notando tutti negli ultimi, nell'ultimo periodo stanno cambiando le condizioni ambientali. È notizia di un paio di giorni fa che la CO2 400 è parti per milioni superate. Appunto ci dovremmo adeguare a tutte queste, cose, o anche Elon Musk dice che vuole arrivare su Marte. Per poterci arrivare dovremo coltivare probabilmente durante tutta la fase del viaggio e dovremo avere queste informazioni. Quindi diciamo che è l'inizio di un viaggio che vorremmo... Che vorreste fosse lungo, e vi auguriamo assolutamente che lo sia. Grazie Riccardo Savi. Grazie a voi, buonasera. Torniamo in studio per salutarci e ricordarvi il prossimo appuntamento lunedì sempre alle 20:50, sempre con Smart City e il sottoscritto. Buon fine settimana a voi tutti.